Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a tutti. Oggi un risveglio molto particolare. Per cominciare, in linea con noi c'è un nostro grande amico che ci ha accompagnato anche per tutta quest'estate, l'amico del venerdì, come alcuni di voi l'hanno ribattezzato, Alberto Pellai, medico psicoterapeuta e ricercatore all'università. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora Alberto, oggi apriamo la giornata insieme perché? Perché voglio essere la prima a lanciare il tuo nuovo libro, che proprio da questo martedì sarà in tutte le librerie. Un libro che è un progetto davvero speciale, a partire dal titolo «Mentre la tempesta colpiva forte». Un libro straordinariamente attuale perché ha a che fare con la grande emergenza pandemica che ha dominato le nostre vite. È così, Alberto? Beh, sì, è proprio così. È un libro che viene raccontato bene dall'immagine di copertina, dove c'è un'onda di tempesta in cima alla quale c'è la casa, all'interno della casa c'è una famiglia, genitori e figli, e provano a tenere, no, il loro equilibrio, a non andare giù in un tempo che invece è profondamente instabile. È un po' quello che è successo a tutti noi in questi mesi e stiamo ancora faticando, ma ci stiamo provando. Alberto, per far capire alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando perché questo libro è così particolare, abbiamo fatto un breve spiccheraggio del messaggio con cui il volume si apre. Lo ascoltiamo. Nessuno questa cosa l'avrebbe voluta. Nessuno l'ha cercata. Ma ora che c'è stata, non serve dimenticarla. Serve invece riattraversarla, col potere che ha la memoria di rivivere ciò che è stato, per farne tesoro, per capire se questo tempo così stropicciato ci ha insegnato qualcosa. Questo è quello che fa la storia. Tiene traccia di tutto e lo trasforma in memoria, permettendoci di imparare, per tenere tutto ciò che serve e non ripetere ciò che invece è stato fonte di un dolore sterile. Perché il dolore può anche essere fertile. Quando il dolore si fa fertile, non solo c'è elaborazione, c'è anche evoluzione. Alberto, c'è tutto qua. E intanto da queste tue parole possiamo iniziare a lavorare, lo facciamo con ottimismo. Dolore, rielaborazione, evoluzione sono tre parole chiave per questo libro che, come dici tu, non insegna a dimenticare e a lasciarsi alle spalle, bensì a ricordare, rielaborare, fare tesoro di ciò che è stato. Sì, questo è proprio un percorso che anche lo psicoterapeuta fa quando lavora col suo paziente. C'è sempre la richiesta di essere aiutati ad attraversare una zona critica che è stata molto molto sfidante, dove uno ha rischiato di avere la percezione di rompersi oppure di non farcela oppure di soffrire troppo. Quando ho scritto questo libro l'idea era proprio questa, cioè la famiglia è stata davvero fortemente sfidata dal tempo della pandemia. Il lockdown è stata un'esperienza quasi ectopica, cioè presa, se ce l'avessero detto che avremmo vissuto quella cosa lì, ma neanche in un film l'avremmo immaginata con quelle proporzioni e con quella struttura. L'idea è che se uno soffre e sta male, poi dice quando finisce tutto basta, dimentico. Bravo, rimuovo. Sì, si dice così, rimuovo, ecco. Non voglio più pensarci, scotomizzo. Esatto, invece in no. realtà mentre noi attraversiamo un tempo così complesso, la nostra mente, le nostre relazioni si adattano a tutte quelle trasformazioni e non solo cercano di sopravvivere, ma imparano anche molte nuove competenze. Quindi l'idea è proprio di fare tesoro di questa esperienza, perché poi è così che funziona l'evoluzione di noi esseri umani, della nostra specie. Noi ci siamo evoluti non nel tempo del comfort, nella comfort zone, quando tutto va bene e non dobbiamo mettere in gioco nessuna competenza specifica. Noi ci siamo evoluti nel tempo della sfida, nel tempo della crisi, è lì che attiviamo nuove competenze, è lì che diventiamo davvero persone migliori. La famiglia è al centro della tua analisi, è una famiglia al tempo del Covid che tu racconti sotto molti punti di vista. È proprio così, perché io la racconto intanto come padre e marito, cioè nel tempo del lockdown io sono stato, e non me lo sarei mai aspettato, davvero recluso con la mia famiglia, i quattro figli, e se penso alla mia, la mia automobile è un po' l'immagine di quello che mi è successo, cioè in che nel senso? Giro di quattro mesi io ho fatto in totale 14 chilometri, e quando a giugno dovevo ripartire per il primo lungo viaggio la macchina non è ripartita, la batteria era esaurita, abbiamo dovuto cambiare tutto. Ecco, è un po' quello, no? Ci siamo davvero fermati, sostati, qualche pezzo non era più funzionante, ma in realtà in questo tempo di sosta mi sono guardato intanto dal di dentro, cioè che cosa questa sfida proponeva a me come genitore. Contemporaneamente è successo che la mia pagina Facebook e il mio indirizzo mail siano stati davvero invasi da esperienze, testimonianze, storie di mamme e papà che si trovavano in una situazione così differente e così nuova. Davvero alcuni miei post hanno avuto più di 1 milione di follower, centinaia di commenti, e quindi è diventata una sorta di osservatorio speciale, gruppo di autoaiuto, che ha davvero permesso di vedere cosa stava succedendo nel mondo della famiglia, e di questo ho provato a far tesoro poi nella narrazione che propongo nel libro. Resilienza è la parola chiave del tuo libro, di questo manuale. Abbiamo parlato tante volte di resilienza. Perché in questi tempi è così importante, e che sfumature ha la resilienza oggi al tempo del Covid? Ma guarda, quando arriva un impatto, un'ondata, uno tsunami così forte sui nostri sistemi, che sono collaudati, abituati a funzionare nella routine, ci sono solo due possibilità: o ti spezzi e quindi ti rompi, oppure ti adatti a quell'urto e piano piano cambi forma e poi ritorni, no, in qualche modo alla tua forma originaria, senza più però acquisire quella forma originaria, bensì adattandoti al cambiamento, integrando le competenze che tu hai messo dentro, imparato, appreso mentre tutto stava succedendo. E solo se la resilienza effettivamente diventa un po' il tuo modello di ispirazione, quindi anche il tuo copione operativo, attraversi tutto quello che sta capitando facendone tesoro. Darei un po' questa idea, che secondo me questa immagine, cioè quando arriva un'onda altissima e noi siamo nel mare, stiamo facendo un bagno, se ci buttiamo sopra l'onda ne veniamo colpiti profondamente, se invece ci buttiamo, no, ci immergiamo, la facciamo passare sopra di noi, noi stiamo sotto, ecco che l'onda ci passa sopra, non è che non c'è stata, ma noi ne usciamo e non ne siamo stati così devastati e distrutti. Ecco, secondo me resilienza vuol dire non negare l'arrivo dell'onda, ma trovare strategie per fare in modo che quell'onda ci passi sopra, ci attraversi in qualche modo, ma non ci distrugga, non ci faccia molto male. Alberto, proprio in queste settimane la resilienza familiare, direi, messa a dura prova dal ritorno a scuola, tante polemiche, tante preoccupazioni anche da parte dei genitori. La tua pagina Facebook è diventata un osservatorio a tutti gli effetti, anche dai numeri altissimi. Tanti genitori ti scrivono, si confrontano con te, ti chiedono anche delle rassicurazioni, delle spiegazioni, approfittando anche del fatto che tu sei uno scrittore, uno psicoterapeuta, ma sei anche un medico, oltre che un genitore, e quindi un papà e un marito. Che cosa ne pensi di tutta questa situazione? Siamo un po' sospesi, c'è chi si chiude, c'è chi è fiducioso, chi ha molta paura, chi si lascia andare a delle critiche violente. Alberto. Ma io credo che le parole che hai appena detto sono un quadro perfetto di come anche tra noi genitori, mondo adulto, noi non siamo riusciti ad assumere una posizione coerente, comune e condivisa. Per i nostri figli sarebbe così importante potersi interfacciare con un mondo adulto che sviluppa una mente adulta comune, perché è un po' come dire che quando sei dentro una tempesta c'è comunque un capitano che sa tenere in mano il timone e si occupa lui di portare la zattera verso il porto e verso una zona sicura. Ecco, tutte queste divisioni, fragilità, vulnerabilità, ansie che ognuno mette in gioco, a volte anche conflitti, effettivamente non fanno bene. Io personalmente penso che c'è un bisogno assoluto di ripartenza, che la scuola è il luogo anche simbolico dove, per così dire, la ricostruzione, il riavvio, e dove i nostri figli sentono di potersi riappropriare di una vita che ha una struttura forte e ha un progetto che guarda in avanti. La scuola fondamentalmente è un investimento fortissimo sul futuro, è uno sguardo aperto proprio sul territorio della speranza, un territorio dove si costruisce, si mettono via competenze. Ecco, spero solo che non sia un luogo dove questa ansia poi ossessiva di tenere tutto sotto controllo trasformi la scuola in un luogo di controllo dove tantissimo tempo viene speso per ribadire le norme di prevenzione. Darei proprio come consiglio anche agli insegnanti di gestire subito nelle prime giornate l'idea di una regola che non è imposta dall'alto, ma che è proprio condivisa e co-costruita all'interno di ogni gruppo classe. I bambini sanno fare questo lavoro benissimo, ma anche i preadolescenti e gli adolescenti, quando vengono responsabilizzati e non si sentono imporre le cose dall'alto, ma sentono di essere costruttori di un ambiente che struttura e sostiene il benessere di tutti, diventano fantastici collaboratori. Alberto, in questo libro bellissimo tu affronti molte sfide che hanno interessato migliaia di famiglie, di persone. Una è particolarmente, veramente toccante. E proviamo a raccontarla con un altro breve testo preso dal tuo libro. Perderti. Non me l'aspettavo. Non pensavo che sarebbe stato possibile. Invece è successo. Perderti. Il cuore si è lacerato. Anche il corpo. Sembra intero, ma è tutto rotto. Eri una montagna. C'eri sempre. Sapevo dove trovarti. Guardavo fuori dalla finestra e vedere il tuo profilo definiva l'orizzonte del mio vivere. Un giorno, invece, il vuoto. Un buco ha preso il posto di te. È un buco pieno di niente. Più provo a riempirlo, più mi sento vuoto. Nel perderti, mi sento perso e non so come ritrovarmi. Alberto, un brano che ci tocca nel profondo e che tu hai usato per affrontare un tema che ti sta particolarmente a cuore. Sì, questo è un brano che tocca il tema della perdita, il tema del lutto. Ci saranno territori in cui i ragazzi arriveranno dopo aver perso veramente tante cose, alcuni anche proprio degli affetti personali. Sì. Ecco, l'educazione è anche tenere alto lo sguardo sui bisogni emotivi, ci sarà bisogno anche di accoglienza emotiva, e se sapremo far tesoro anche del valore di ciò che abbiamo perso, sapremo anche poi guardare ancora meglio tutto quello che invece potremo conquistare. Questo deve essere un tempo di rielaborazione della perdita, ma anche di riconquista di tutto ciò che è un dovere, un diritto per rendere la nostra vita degna di questo nome. Mentre la tempesta colpiva forte, De Agostini Editore, questo è il titolo del libro di Alberto Pellai, che abbiamo tenuto un po' a battesimo tutti noi di Obiettivo Salute e Risveglio. Buona giornata, grazie Alberto. Grazie a voi, saluti. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.